Il bello delle donne è quel sottile non so che. La scatola dei sogni che in fondo questa vita è. Le loro biciclette leggere come ali nuove e quelle camicette di femminili prove. Il bello delle donne, difficile spiegarla sai, quell'anima di carne che frulla lieve nel via vai. Magnifici difetti, la loro cattiveria onesta, il bianco dei confetti che nella loro testa c'è, per ricamare i giorni e trasformarli in vita. Il bello delle donne, la femminilità, è quasi sempre sa. Quello che sarà. Il bello delle donne, prendiamo esempio te, che hai conquistato gli anni per regalarli a me. Il bello delle donne è dire in faccia sì o no. Bambine, mamme, nonne, api, regine, forse un po'. Il cuore è un po' più rosso, hanno un concetto dell'amore che spesso non ha sesso, può essere anche il mare. Oh, qualcosa da salvare o da dimenticare. Il bello delle donne, la femminilità, è quasi sempre sano, già quello che sa. Dei sogni che in fondo questa vita è.